5F. Ascolta e rispondi. Quando faranno gli esercizi? Li faranno dopo pranzo. A che ora vedranno gli amici? Li vedranno alle 10. Dove accompagneranno i bambini? Li accompagneranno allo zoo. Quando chiameranno gli amici? Li chiameranno dopodomani. Quando sosterranno gli esami? Li sosterranno l'anno prossimo. Dove lasceranno i documenti? Li lasceranno nella cassaforte.